Terzo anello, ad alta voce. Francesco Siciliano legge Con gli occhi chiusi di Federigo Tozzi. A Siena Pietro inventò che gli esami erano andati male. Egli si sentiva sempre di più una vittima di quelle ingiustizie, contro le quali tutti avrebbero dovuto insorgere d'accordo. Domenico gridò: «Che hai fatto? Se tu avessi studiato, sei convinto che non sei nato per la scuola?» La collera gli parve meritata, ma gli bastava che egli non facesse alcuna allusione a Ghisola. Il suo malumore e la sua ansia si riaprirono, e questa volta peggio, perché l'amore per Ghisola cresceva sempre. Tutte le altre cose non lasciavano traccia, come se non lo riguardassero nemmeno. Sentiva d'esser caduto dentro un vuoto, dal quale non sarebbe più uscito. Ma doveva incolpare Ghisola? No, soltanto se stesso. Anzi, si credette perduto dinanzi a lei, ma pensava ogni mattina destandosi: «Se non ci fosse Ghisola, io mi ucciderei!» E vedeva ritrarsi tutta la tranquillità morale a cui si era soltanto avvicinato. Domenico non manifestò subito l'impazienza che aveva di veder Pietro occuparsi degli affari. Ma come le conversazioni doventavano di quell'affabilità affettata che cela in sé gli scoppi della collera, così anche evitarono di parlarsi. Tutti tenevano dalla parte del Rosi e si aspettavano una leticata. Pietro lo capì, fingendo di non accorgersi di quello che pensasse suo padre quando lo guardava quasi di sfuggita. Domenico talvolta si stimava un uomo semplice e rozzo dinanzi a un raffinato ed un cattivo. E allora temeva d'avere la peggio. Che cosa erano valsi i lunghi sforzi di cui aveva riempito tutta la vita? Morendo, non avrebbe consegnato al figliolo ciò che aveva potuto strappare con il lavoro e l'astuzia. E proprio il figliolo non l'apprezzava. Proprio il figliolo voleva mandare in rovina il patrimonio. Allora si accorse dell'errore che aveva fatto, accordandogli troppo anche riguardo a Ghisola. Egli stesso l'aveva accolta in casa, ed ora la disonesta glielo metteva contro, insegnandogli ad odiarlo. Gli parve un tradimento cercato. Il seminario, l'Accademia di Belle Arti, la scuola tecnica, l'istituto tecnico, i maestri privati, tutto! Questi pensieri li aveva avuti tante volte, che stimava essere il momento di non lasciarsi sopraffare. Seduto sulla sedia che gli serviva da più di 20 anni, lo seguiva con lo sguardo, tenendo le mani in tasca dei calzoni, appoggiando al muro il capo già calvo. Ma non diceva niente, procurando di distrarsi con i servi e con qualche cliente che andava a salutarlo. Pietro pensava a tutte le cose familiari che avrebbe voluto possedere per sé e per Ghisola. Pensava al lume così quieto e sempre uguale, con la campana di latta, pensava alla poltrona della mamma, sotto il cui guanciale era una specie di cassetto di legno dove ella aveva tenuto i gomitoli di lane, e i suoi due soli libri, due romanzi a dispense illustrate. Pensava ai 4 guanciali a cui ella s'appoggiava, i quali si erano deformati ciascuno in modo riconoscibile. Pensava all'odore dell'acqua di Colonia, alle boccette antisteriche, ad una crocettina d'oro consunto. Prima di addormentarsi nel suo letto duro, ricordava tutte le cose più note, alle quali portava un'affezione intensa per quanto incosciente. Gli pareva di dover dare un'altra impronta e un altro significato a tali cose. Ghisola sarebbe stata la rinnovatrice, ed egli provava la stessa dolcezza che aveva provato stando insieme con lei. Spenta la candela, si voltava dalla parte del muro e dormiva. Domenico, verso la mezzanotte, attraversava la camera, con in mano la lucerna d'ottone. E allora Pietro si destava e gli veniva voglia d'alzare il capo. Ma l'altra porta si richiudeva, ed egli rimaneva con quello scontento di quando è interrotta una disposizione d'animo. La mattina mattina Domenico usciva prestissimo, senza dir niente a Pietro, che si provava a dare un'altra intonazione a quei sogni che si hanno durante il dormiveglia, quando pare che siano in grado di smettere o di continuare il sonno. Si sedeva al suo tavolino, senza far niente, con i ginocchi appuntati sotto il cassetto. Gli pareva impossibile che tutte le cose si disinteressassero di lui, mentre la sua memoria sensuale gli produceva una sovreccitazione inebriante. Si commuoveva dunque d'essere destinato soltanto a soffrire. «Perché io non posso vedere Ghisola? Nessuno è costretto come me a rinunciare a tutto, e nessuno se ne mischia!» «Non so spiegarmi come agli altri sia possibile avere qualche occupazione che non avrò mai. Il vetturino frusta il cavallo per far più presto, gli spazzini annaffiano!» Ma evitava di entrare nella bottega fino all'ora del pranzo, e doveva aspettare il momento opportuno, perché anche il cuoco non gli rispondesse male, accontentandosi di quello che gli davano, e prendendo da se stesso il pane e le posate nella dispensa. Egli, che aveva amato idealmente gli altri, provava ora uno struggimento amaro. Ma c'era caso che suo padre gli dicesse: «Non stare nel mezzo mentre passano i camerieri, tu non lavori!» Poi esciva di bottega perché non volesse obbligarlo a lavorare. «È possibile che io sia costretto a correre dal pizzicagnolo a comprare il formaggio, oppure a prendere una sporta e farla riempire di pane, oppure discutere con qualcuno che vuole scemare il conto? Ghisola, del resto, non acconsentirebbe più a sposarmi.» Un giorno ricevette una lettera. La calligrafia della busta gli dette subito il senso di un avvenimento inevitabile. Non voleva aprirla. E lesse: «Ghisola lo tradisce. Se vuole averne la prova, vada in via della Pergola.» Vi era il numero della casa, un nome di donna, forse falso. Gli parve che queste parole risolvessero una cosa inspiegabile. Egli pensò: «Vi deve essere un vero motivo.» E tutte le avversità dolorose gli comparvero l'una dopo l'altra, provando meraviglia della compassione che una persona ignota aveva avuto di lui. Poi rifletté al modo di trovarsi i denari per andare a sorprendere Ghisola. Rebecca non glieli voleva prestare, rimproverandolo che non le avesse restituiti nemmeno gli altri, ma Pietro insisté: «Ma come vuoi che possa chiederle a mio padre?» «Ma se li faccia dare da qualche suo amico, farò così da qui innanzi. Questa volta dammeli tu.» Se avesse dovuto attendere ancora, non avrebbe avuto l'animo di insistere. Ma Rebecca, credendo alla sua promessa, cedette. Pietro contò da sé i denari, mentre ella, appoggiandosi al cassetto aperto, lo guardava in viso. Le sorrise e la ringraziò. Rebecca, accompagnandolo in cima alle scale, gli raccomandò ancora: «Pensi che me li deve restituire?» Era vero che Ghisola si faceva spedire le lettere a Badia a Ripoli, ma non poteva darsi che avesse cambiato dimora soltanto da pochi giorni. Di che cosa poteva trattarsi? Si sforzò di definire tutte le specie di dubbi, ma poiché non ne teneva nessun conto, gli fu impossibile rispondersi. Per la prima volta tutto il cumulo delle cose tristi gli parve lontano da sé, e che gli fosse possibile distruggerlo. Tutte le sofferenze gli parvero esteriori, provando una piccola felicità che non somigliava a nessun'altra. Pensò: «Perché ho creduto subito alla lettera?» Durante il viaggio gli sembrò d'essere in uno stato di incoscienza e con la febbre, ma aveva fretta di giungere. Il treno correva vicino all'Arno, la cui acqua luccicava come se migliaia di specchi vi si rompessero insieme. Oltrepassava le pinete a picco, acuminate, ancora sparse d'ombre violacee, tra i pioppi bianchi e tremuli, dietro i pali telegrafici, cipressi a fasci, cipressi rinchiusi da altri cipressi. Andava verso la città sopra la quale si raccoglieva una dolcezza d'azzurro, tra le colline l'una più soave dell'altra. Quella bellezza meravigliosa l'umiliava, mentre l'amore che fino allora aveva portato a Ghisola gli pareva un'indegnità abominevole senza saper perché. «È possibile che io non la debba amare?» Entrò nell'uscio indicato dalla lettera, passando tra alcune donne che non si scansarono. La scala era buia e sudicia, con odore di lezzo e di cipria. Al primo piano, dalla porta aperta un poco, scorse con una vestaglia rosea una prostituta, che lo guardò quasi ironicamente. Al secondo piano era un altro appartamento, aperto lo stesso. Si soffermò per ascoltare. Udiva alcune voci allegre di donne, una canticchiava. Se ne dette la peggiore spiegazione e poi la migliore. Ma rabbrividì. È possibile che Ghisola si trovi in mezzo a tale gente? E come per fuggire salì più in fretta agli altri scalini. Si fermò, con il respiro mozzato, all'ultimo piano. Vi era un salotto con una tavola ovale in mezzo. La vista gli si offuscò. Allora intravide confusamente una donna distesa in un canapè che conversava con un soldato, il cui berretto era distante da loro sopra una sedia. Questa donna ebbe paura di Pietro, che la fissò stravolto. Toccò con una mano il ginocchio del soldato ed ambedue gli posero gli occhi addosso. Egli fece un altro passo, ma gli pareva di non avere più gambe. Era come dinanzi a un incubo improvviso a cui non voleva credere. Balbettò qualcosa, ma la donna non rispose. Allora si convinse d'averla offesa e stava per andarsene, ma in quel momento Ghisola s'avanzò da un uscio aperto. Scorgendolo si arrestò subito, impallidì fino a quasi a svenire, ma poi tornò dietro, sorreggendosi con un gomito lungo il muro, come torna indietro un topo mezzo schiacciato dal colpo avuto. Per non soccombere alla sensazione che Pietro aveva di perdere l'equilibrio, dopo essersi sentito afferrare come da una forza, la seguì a caso in una stanza di cui vide soltanto la finestra. Ella si era già tolta la giacchetta troppo sporca quando egli entrò, ma aveva voluto sedersi perché fosse meno visibile il profilo della gravidanza. Egli si curvò a baciarla, quasi piangendo. «Perché stai così?» Ella non sapeva quel che rispondere. «Si è accorto che sono gravida, e quando glielo devo dire? Mi aspettavo che avvenisse questo.» Poi parlò. «Sono tutte donne qui.» Egli istantaneamente non le credette più e rispose. «Ma io non voglio rivestiti.» «Perché hai questo livido nel braccio?» Ella temeva di imbrogliarsi, ma rispose: «Mi sono morsa da me.» Egli pensò che poteva essere vero. Dopo una pausa, nella quale sperò che tutto si dissipasse, le disse: «Andiamo via di qui, ti voglio parlare.» «Stiamo qui. Io non esco oggi.» Ci fu un'altra pausa, che gli fece pensare: «Perché non ho chiesto di quale specie è il tradimento suo? Così non mi accerterò mai di niente. Che posso dirle?» «Non mi piace questa casa.» «E che casa è?» «Te lo dirò, ma non c'è niente di male.» Ella aveva deliberato più di una volta di confessargli la gravidanza, ma ora le parve impossibile e voleva nasconderla proprio davanti alla sorpresa. Egli si decise a parlare più in fretta. «Alzati.» Entrò la padrona dell'abitazione, una donna robusta e terchiata, con una cintola di cuoio bianco intorno alla vita, una levatrice che teneva a retta le partorienti. Pietro si volse a lei, intimorito dell'effetto che i suoi sospetti avrebbero potuto produrle. Cercò di spiegarle perché si trovasse lì. La donna, che sapeva tutto, non vide nessun riparo per Ghisola e temette che egli l'avrebbe uccisa. Ghisola guardava la finestra per buttarvisi, con impulso isterico, reso più possibile dalla sua gravidanza. La donna si indugiò, accomodando il lavamano, ripiegando una salvietta, vigilando Pietro con la coda dell'occhio e cercando di chiedere a Ghisola quel che dovesse fare. Pietro aspettava che ella se ne andasse, mentre tutti i suoi gesti lo impazientivano. Infine, con grande sforzo, le disse: «Voglio restare solo con Ghisola.» E Ghisola, avendo nel frattempo infilata un'altra camicetta, senza alzarsi dal canapè, senza che egli vedesse niente, rispose: «Vada pure, ci penso io.» Ma il suo terrore non diminuiva, e le pareva che avrebbe dovuto inginocchiarsi subito. La donna uscì con circospezione, e non chiuse l'uscio, ponendosi ad origliare. Pietro, accorgendosene prima di chiedere qualche spiegazione, volle chiuderlo, ma non riuscì a spingere Chiavistello. Non di meno non avrebbe voluto offendere Ghisola con le domande che doveva fare, più propenso ad attendere ancora. Ella si alzò. Non chiudere. Non ci ode nessuno. Allora egli, voltandosi a lei, con uno sguardo pieno di pietà e di affetto, vide il suo ventre. Quando si riebbe dalla vertigine violenta che l'aveva abbattuto ai piedi di Ghisola, egli non l'amava più. Sono Raffaele Maniche, abbiamo terminato l'ascolto della lettura di Con gli occhi chiusi. L'avete sentita la frase finale. Quando si riebbe dalla vertigine violenta che l'aveva abbattuto ai piedi di Ghisola, egli non l'amava più. Ecco, l'ultima frase di Con gli occhi chiusi ha sempre impressionato per la maniera in cui congeda all'improvviso la vicenda del romanzo. Un modo improvviso di vedere le cose come, appunto, aprendo gli occhi e facendo cessare la cecità alla quale il titolo richiama. È una disillusione? È l'inizio di una nuova vita? Tutto ciò che è detto nel romanzo è che la vecchia vita si è spalancata di fronte a chi l'ha interpretata come una vertigine, un punto in fondo al quale c'era o la morte, gli occhi chiusi per sempre, o il risveglio. Non certamente l'amore, troppe volte mostratosi nel suo artificio di illusione incontrollabile. Ma se stessero così le cose, saremmo di fronte a un romanzo di andamento borghese e con tutte le sue inquietudini tranquillamente adagiato dentro le sponde consolanti del naturalismo. Non è passato inosservato al lettore e all'ascoltatore, in questo caso, che le ultime parole che si scambiano Pietro e Ghisola riguardano un uscio che lui vorrebbe chiudere e lei tenere aperto. Si tratta di un luogo e di un passaggio altamente simbolico. Non soltanto la porta della pensione per partorienti, ma l'uscio che divide l'idea della vita dalla vita reale. E simbolico è anche l'alzarsi di Ghisola e il cadere di Pietro ai suoi piedi. Ella si alzò. Non chiudere, non ci ode nessuno, così dice il romanzo. L'esclusione dal mondo, il trovarsi in due, ecco che cosa potrebbe essere l'amore o il suo inganno. Ma Pietro, per la prima volta, vede. L'ultimo suo gesto nel romanzo è uno sguardo. E vede Ghisola per l'ultima volta come fosse la Madonna, ventre è una parola dell'Ave Maria. E per la prima e l'ultima volta vede che cade quella che aveva immaginato come fosse una donna ideale. Dice il romanzo, allora egli, volgendosi a lei con uno sguardo pieno di pietà e di affetto, vide il suo ventre. Con gli occhi chiusi però non è neppure un romanzo simbolico, è un romanzo pieno di simboli, ma solo se così designiamo quei movimenti vividi o violenti dell'esistere che continuano a rimbombare dentro l'anima di una persona per tutto il tempo in cui vive, al modo che la psicanalisi ci ha insegnato a conoscere. Grandi critici, da Giacomo De Benedetti a Luigi Baldacci, hanno esplorato il mondo sommerso di Tozzi. Un mondo quasi inimmaginabile se si sta alla sua lettera, alla sua pagina così limpida da quasi non lasciar prevedere quali terremoti si agitino sotto il pelo dell'acqua. L'effetto raggiunto dal finale di Con gli occhi chiusi è del resto il risultato di una lunga meditazione. Una novella, intitolata Pietro Isola, e che precedeva il romanzo, dice come Tozzi abbia lavorato a cancellare moralismi ed enfasi, prosciugando per arrivare a un punto di definitiva durezza. Nella novella, Ghisola si chiama ancora come il personaggio reale che l'ha ispirata. Dopo essersi accorto della gravidanza di Isola, Pietro viene preso da un senso di ripugnanza e di distacco, ma le parla. E nella novella, alla fine si dice: dopo qualche giorno sentì il bisogno di distruggere tutto quel che di lei gli era rimasto, la lettera e la ciocca di capelli, bruciò ogni cosa. Isola gli scrisse ed egli non rispose, ormai si sentiva avviato verso una cosa migliore. Le tracce di lei vengono distrutte, dunque, nella novella, l'abbandono avviene a distanza, il futuro ha ancora qualcosa da dire. questo qualcosa da dire è qualcosa di molto buono, una cosa migliore, dice il narratore. Invece, in Con gli occhi chiusi, il dialogo viene tagliato, l'abbandono è immediato, appena spostato nel tempo, misurato da quel quando si riebbe dalla vertigine violenta, eccetera, quel quando così intemporale di sospensione dopo la pausa segnata con un asterisco nel testo. La disillusione arriva così potente da lasciare ammutoliti. E non c'è futuro. Come a dire che la condanna emessa dalla vita non riguardava soltanto lei, riguardava, e in misura forse maggiore, anche e soprattutto lui. Francesco Siciliano ha letto Con gli occhi chiusi di Federico Tozzi, postfazione di Raffaele Manica, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.